Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Se è verde o si muove è biologia, se puzza è chimica, se non funziona è fisica, se non si capisce è matematica, se non ha senso è economia o psicologia. Così Arthur Block, scrittore e umorista americano noto per La legge di Murphy. Questa sera il primo dei nostri approfondimenti è dedicato proprio a un economista, padre della macroeconomia, considerato il più influente tra gli economisti del XX secolo. Un saggio appena uscito ci aiuta a comprendere la contemporaneità del suo pensiero anche nel mondo dei consumi. Siamo pronti per la cashless society. L'emergenza coronavirus ha dato una bella spallata alle resistenze per i pagamenti digitali, tempo di educazione finanziaria anche per i consumatori e risparmiatori più piccoli. E poi voglia di convivialità e natura, due delle cose che ci sono mancate di più in questi mesi. Arriva il primo portale per la prenotazione di pranzi e cene all'aperto. Focus sui trend è dedicato infine ai tips salva vacanze tra sicurezza e turismo di prossimità. Il crollo del commercio e dell'occupazione e le perdite che si stanno verificando sono tanto gravi quanto i peggiori che si siano mai verificati nella storia moderna del mondo. Nessun paese è esente. La privazione e, peggio, l'ansia che esistono oggi in milioni di case in tutto il mondo è estrema. La cosa peggiore è che abbiamo una scusa eccellente per non fare nulla. Oggi molti credono che la cosa più utile da fare sia risparmiare più del solito, ma è tutto sbagliato. È assolutamente dannoso e fuorviante, il contrario della verità. Pertanto, o casalinghe patriottiche, dedicatevi alle meravigliose vendite che sono pubblicizzate ovunque. Fate tutto il necessario per soddisfare i bisogni vostri e delle vostre famiglie, apportare miglioramenti, costruire. Questo è il momento di consumare. Non stiamo sfruttando appieno le nostre opportunità per trovare uno sblocco per il grande aumento della nostra capacità produttiva. Attività, audacia e impresa, sia a livello individuale che nazionale, devono essere la cura. Questo è l'intervento che John Maynard Keynes fece nel 1931 alla radio della BBC. Siamo partiti da qui per la nostra chiacchierata con Luciano Canova, economista e divulgatore, docente di economia comportamentale alla scuola Enrico Mattei. Il suo nuovo libro è Quando l'oceano si arrabbia, Keynes, per chi non l'ha mai letto. Un discorso straordinariamente attuale e paradossalmente distante, perché l'invito alle massaie a consumare è patriottico, appunto perché parla di un'economia di guerra, e quindi quella che oggi viene, secondo me, erroneamente definita come economia di guerra le somiglia per il fatto che manca l'economia reale. E quindi quello che Keynes invece dice di molto attuale è proprio che per far andare la domanda c'è bisogno di economia reale, ed è quello che è mancato nella fase di lockdown. Per questo gli stimoli fiscali dei governi, le manovre che oggi vengono definite keynesiane, fanno proprio riferimento alla necessità, mai come in questi mesi ci siamo accorti dell'importanza dell'economia reale e di tutto ciò che può supportarla, in primis l'intervento pubblico, che è poi un po' la leva, la cifra con cui conosciamo Keynes. Non posso non chiederti il perché di questo titolo, Quando l'oceano si arrabbia. Ma qui era per fare un po' il verso agli economisti che sono per forza conoscitori di Keynes, perché lo hanno studiato, e tutt'oggi un bel pezzo del corso di macroeconomia è fatto di modelli keynesiani, ma che probabilmente non lo hanno letto, faccio mea culpa e coming out, oppure fino a un anno e mezzo fa non avevo letto i trattati di Keynes. Quindi Quando l'oceano si arrabbia fa il verso allo slogan con cui normalmente si riassume erroneamente un intellettuale. Nel caso di Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti. Come spesso accade alle citazioni, questa citazione nella frase completa innanzitutto guadagna di lirismo e soprattutto ci dice che cosa per Keynes è un economista, perché lui dice un economista che si limita a studiare i modelli per quanto raffinati essi siano, non può fare altro che prevedere, una volta che è passata la tempesta, che il mare torni piatto, ma il vero economista è quello che nel mezzo della tempesta trova la rotta, anche consapevole della strutturale incertezza che ha di fronte. Trova la rotta o cerca la rotta, quindi mettere le mani, diciamo sporcarsi le mani, mettere le mani in pasta, che è quello che faceva Keynes intervenendo direttamente sul dibattito per cercare di modificare la realtà che aveva di fronte. Tu scrivi: Keynes sta all'economia, qualcuno ha detto, come Einstein alla fisica, ma i due geni sono quanto di più diverso si possa trovare sul mercato. Spiegaci. E tra l'altro aggiungo: Keynes sta a guerre stellari come ci sta Darth Vader, nel senso che anche se non lo si conosce, non si è visto guerre stellari, se ne è sentito parlare. Stessa cosa capita a Keynes, e quindi questa è la metafora con cui sviluppo nel libro un argomento. Per quanto concerne Einstein, è riconosciuto Keynes come un pensatore che ha cambiato la scienza economica radicalmente, esattamente come Einstein ha cambiato il mondo della fisica, però dico, non sono distantissimi, perché Einstein è, se vogliamo, uno scienziato, un genio veramente del, forse ancora del XIX secolo, fine XIX secolo, perché è molto ossessionato in verticale dalla sua teoria geniale della relatività, mentre Keynes è in qualche modo antesignano, se vogliamo, se posso, mi permetto questa semplificazione, del metatesto, perché lo definisco surfista della cultura, perché lui in realtà invece con una straordinaria capacità si muove a 360 gradi su più dimensioni e su più discipline. Per questo tra l'altro diventa economista, perché l'economia gli consente di spaziare dalla storia, alla psicologia, alla sociologia, alla matematica, rimanendo in superficie, però quello lo può fare soltanto chi ha veramente padronanza di una materia. E quindi è simile per il ruolo che ha avuto nell'impattare sull'economia, ma molto diverso proprio per questa sua, come dire, capacità di essere già un metatesto, di muoversi per link tra le discipline. Con questo tuo saggio continua il percorso di divulgazione dell'economia. Ricordiamo anche il penultimo, il metro della felicità, un'economia che può essere approcciata secondo la tua visione anche in modo molto meno tecnico di quanto si immagini e molto trasversale. Ecco, che cosa ci può insegnare l'economia oggi, i suoi fondamenti nella vita di tutti i giorni? Non è che tutti devono diventare economisti, è un errore pensare che sia così. Tutti però possono essere resi più consapevoli dei fondamenti che poi stanno alla base delle nostre decisioni economico-finanziarie. Quindi l'alfabetizzazione economico-finanziaria che l'OCSE misura e che purtroppo vede l'Italia dover colmare un gap importante con gli altri paesi, è invece qualche cosa a cui bisogna aspirare. E quindi io il mio lavoro cerco di farlo proprio in questo senso, perché è davvero portare l'economia anche attraverso lo storytelling, per cui Keynes diventa un po' il cavallo di Troia per raccontare alcuni concetti ma anche un metodo, e in generale cercare di avvicinare persone che quasi per pregiudizio si allontanano dai numeri o da ciò che vedono come triste e noioso. Penso sia un dovere, anche perché appunto l'economia è nelle scelte quotidiane di consumo che tutti noi facciamo, e quindi perché non avere un po' più di consapevolezza e piacere nel fare queste scelte? Educazione finanziaria, dunque, restiamo in tema con il secondo dei nostri approfondimenti. Parliamo di Revolut Junior, l'app per gestire il denaro studiata per bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni. Ce la siamo fatta raccontare da Elena Lavezzi, responsabile Sud Europa di Revolut. Revolut Junior è progettata interamente per i bambini e i ragazzi dai 7 ai 17 anni. Ha un obiettivo molto semplice, ovvero promuovere l'educazione finanziaria tra i ragazzi attraverso strumenti, consigli personalizzati, ovviamente l'aiuto e il controllo anche di un genitore oppure del tutore legale tramite la propria app di Revolut. Gli account possono essere creati soltanto da un adulto che è già utente Revolut, e offrono tutti gli strumenti che possono insegnare ai più giovani ad avere più dimestichezza con le proprie finanze e piano piano a diventare appunto finanziariamente dipendenti quando poi saranno degli adulti. Il prodotto ha tre principali componenti: l'app Revolut Junior, creata appositamente per i bambini e permette loro di controllare il proprio saldo, ricevere gli alert delle transazioni, e via dicendo. All'interno dell'app normale di Revolut, dunque l'app per adulti, c'è una sezione dedicata ai genitori che permette appunto loro di creare questo account dedicato ai ragazzi. E poi per i bambini c'è una carta esclusiva Revolut Junior. Per ogni notifica, per ogni spesa, arriva poi l'alert al genitore. L'obiettivo è proprio quello di insegnare il bambino a spendere in maniera più consapevole. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché nella seconda parte ripartiamo da It's Picnic, primo portale per la prenotazione di pranzi e cene all'aperto, spazio anche ai nostri travel tips, qualche dritta preziosa per vacanze smart, sicure e di prossimità, come le ultime tendenze nel turismo impongono. Essere e avere. Pranzi e cene all'aperto in formato picnic. Ripartiamo da qui con la seconda parte di Essere Avere. Ripartiamo dal portale itspicnic.com che permette di prenotare il proprio cestino e il proprio spazio in sicurezza all'aperto presso ristoranti, agriturismi e cascine. Gabriele Scaglioni è uno dei fondatori. Il progetto It's Picnic è nato in piena emergenza Covid per supportare la ripartenza del territorio e incentivare il turismo locale. Piccole imprese ristoratrici, spesso familiari, hanno grazie al nostro format la possibilità di offrire ai loro clienti e alla nostra community proposte di pranzo e cena all'aperto, sicure e in linea con le nuove regole sul distanziamento sociale. Principalmente sono agriturismi, ville e tutte le strutture che hanno la possibilità di avere uno spazio all'aperto. Siamo partiti dalla Lombardia e ci stiamo poi espandendo in tutta Italia. Grazie a It's Picnic la struttura riduce drasticamente gli sprechi perché ha sempre sotto mano quanto gente è prevista, può chiedere quando vuole le prenotazioni e decidere il numero massimo di cestini picnic. Le strutture presenti sul portale vengono selezionate perché rispettano dei parametri per noi molto importanti. Come primo punto l'impatto sull'ambiente dell'iniziativa. Ridurre al minimo il packaging utilizzato e dove è proprio indispensabile utilizzare materiali ecosostenibili come cartone o plastica riciclata. Come secondo punto la composizione del cestino picnic con la selezione di materie prime di qualità che provengono dal territorio in cui è situata la struttura o che producono internamente. Qual è il prezzo medio praticato per un picnic? Partiamo dai 15 euro e arriviamo sui 30 euro, quindi un prezzo medio siamo dai 20-25 euro. Focus sui trend. La metà degli italiani, ci dicono i dati, è propenso ad andare in vacanza, ma solo il 5% ha già prenotato. Paura dei contagi e incertezza economica frenano la nostra voglia di vacanza. Per il focus sui trend di questa settimana abbiamo raccolto qualche dritta, quelle che in gergo si chiamano travel tips. Sabrina Donzelli, ben ritrovata. Ben trovata a te, un saluto a tutti quanti. Iniziamo dalla situazione delle spiagge con le tanto citate app per la prenotazione. Sì, praticamente le app faranno parte del kit da spiaggia quest'anno per ritrovare la stessa spiaggia, lo stesso mare, ma in sicurezza. Sono diverse le soluzioni, ne cito soltanto tre. La prima, Beach Around, una web app lanciata il 25 aprile che permette alle persone di riservare il proprio posto. In questo momento in oltre 7.000 stabilimenti balneari in Italia, ma è un numero in aumento. Il servizio è abbastanza semplice. Per trovare le spiagge è sufficiente compilare il modulo presente nella home page indicando la località o come opzione il nome di uno stabilimento. Ci sono diversi filtri per la ricerca, dalle docce all'accesso disabili, giochi per bambini, parcheggio, wifi, quindi si può così orientare la propria scelta. Questa è una prima, diciamo, app che vi segnalo per tutta l'Italia, poi ce ne sono diverse che fanno riferimento a regioni in particolari o anche a specifiche località. Un esempio per le regioni, per la Sicilia, anche qua sono diverse le soluzioni, ne cito una, app Lido Lido, creata recentemente da un gruppo di giovani imprenditori di Modica, la startup si chiama Orango, questo è per le spiagge organizzate, gli stabilimenti, però si pone il problema anche per le spiagge libere. Rimanendo in Sicilia, per quanto riguarda le spiagge libere, ad esempio a San Vito Lo Capo, Trapani, ci sono un servizio di steward nelle varie spiagge per orientare, contenere nel caso le persone ed eventuali comportamenti poco sicuri. Ultima segnalazione per quanto riguarda le app, andiamo ancora in una località ancora più focalizzata, vicino Ancona, Riviera del Conero, in particolare per Portonovo e Mezzavalle c'è un'app iBeach per prenotare le spiagge libere, valida diciamo in particolare per i sabati e le domeniche, giorni più gettonati, ed essendo delle spiagge di sassi bianchi bellissime, ma sotto il promontorio delle piccole baie, ovviamente non riescono ad ospitare tantissime persone in questa formula di distanziamento sociale, e quindi si può prenotare lo spazio di un telomare singolo, di coppia, o lo spazio di un ombrellone fino a un massimo di 4 persone. Restiamo nelle Marche perché sono una meta super consigliata quest'anno. Super consigliata anche perché è stata inserita nella classifica della Lonely Planet per il 2020. Lonely Planet sono le guide che tutti i viaggiatori conoscono, quindi riconosciute a livello internazionale, ogni anno stilano un elenco delle migliori mete e addirittura le Marche quest'anno sono al secondo posto dopo la Via della Seta, si trovano le Marche ed è l'unica meta italiana inserita in questa classifica. Quest'anno si festeggerà il 500° anniversario della morte di Raffaello, la città di Urbino guida un po' le celebrazioni con mostre e iniziative, ma le Marche sono di interesse perché dalle spiagge, abbiamo parlato poco fa della Riviera del Conero, ai monti come i Monti Sibillini presentano paesaggi e realtà diverse, quindi passando anche tra le colline, paesaggi morbidi, atmosfere calme, direi un po' un clima da vacanze di prossimità fra arte, cultura, natura e gastronomia. Turismo di prossimità, dunque una delle parole d'ordine quest'anno, prossima meta, prossima tip, questa volta ci porti a Venezia. Questa volta vi porto a Venezia, in laguna, nell'isola di Certosa. L'isola di Certosa era una delle molte isole demaniali abbandonate della Laguna che negli ultimi anni sta rinascendo e quindi oggetto di un programma di rigenerazione urbana a cura della società Vento, Vento di Venezia, che insieme al gruppo Alaimo ha aperto e lanciato Osteria in Certosa, una pop-up, un ristorante pop-up estivo. L'idea è nata recentemente per dare un po' un contributo all'isola e alla voglia di ripartire. Per cui proprio sul molo dell'isola della Certosa ha aperto questa osteria, che è una moderna osteria da un design, come dire, semplice, essenziale, ma molto curato, aperta 7 giorni su 7, dalle 9 a mezzanotte, ed è interessante perché questo eclettismo e versatilità della proposta, di livello sicuramente, risponde proprio a molte esigenze e anche dei naviganti, perché è disponibile un servizio di takeaway, quindi attraverso la piattaforma digitale è possibile prenotare, ordinare e poi effettuare il ritiro direttamente dalla propria barca. In chiusura, il nostro consiglio è quello di alimentare il turismo di casa nostra, però per chi proprio volesse andare all'estero, anche in quest'ultimo caso la nostra dritta, Sabrina. C'è un sito e un'app europea che è utile per chi desidera partire e andare oltre frontiera, reopen.eu, per avere un aggiornamento in tempo reale e in 24 lingue, dalle restrizioni di viaggio agli obblighi da rispettare alle più recenti aperture, e sicuramente aiuta a monitorare, pianificare con serenità le proprie vacanze con un occhio alla salute e alla sicurezza. Ecco, naturalmente prevede altre informazioni sempre aggiornate, statistiche rispetto al paese dove ci si intende muovere, accessibilità del territorio, documentazione medica o piuttosto che farmacie, bar, ristoranti, musei. È veramente uno strumento da tenere a portata di mano. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Buonasera Francesco, ben trovato. Qual è il tema di questa puntata? Buonasera Maria Luisa. Il tema di questa puntata è quanto i ragazzi della generazione Z, parliamo in particolare dei 18-24 anni, stiano segnando un futuro davvero interessante per tutte le altre generazioni. Su questo mi baso sui risultati di un osservatorio importante, che è l'osservatorio Coming World Project, quindi il mondo che verrà, realizzato da Glaxi e in cui noi come Future Concept Lab siamo partner. Cosa emerge? Emerge ad esempio che alla domanda cambierà o meno la mentalità degli italiani dopo questa fase così drammatica, i 18-24 anni rispondono affermativamente per il 72%, laddove la media degli italiani è intorno al 57%. Questo vuol dire che c'è una grande consapevolezza dei ragazzi, che troppo spesso vengono tacciati solo, diciamo, di irresponsabilità, magari per gli aperitivi. In realtà gli aperitivi li fanno i loro fratelli maggiori, i 25-34 anni, che invece loro sì che cercano di allontanare l'idea del virus, della pandemia. C'è una grande differenza tra queste due generazioni, e non solo il cambiamento climatico, che forse è stato il primo tema su cui abbiamo capito che c'era una generazione molto giovane che stava avanzando con dei valori nuovi, ma anche una visione direi quasi più sistemica, cioè loro ad esempio sono molto interessati a condividere, ma non la condivisione classica, l'idea di collaborare, l'idea di avere dei protocolli che siano appunto collaborativi. Sono elementi nuovi che ci hanno colpito e che in questa ricerca sta davvero segnando la visione del futuro. Giovani penalizzati dalle crisi degli ultimi anni, il mercato del lavoro in termini di garanzie e progettualità è fortemente sbilanciato a loro svantaggio. Questa crisi rischia in qualche modo di acuire il conflitto generazionale anziché il dialogo? Sì, diciamo che il conflitto generazionale torna ad essere probabilmente dopo 50 anni uno dei grandi temi anche del futuro sociale. Perché per molti anni i ragazzi, giovani, anche fino a 30 anni, si allineavano ai valori dei loro genitori, anzi a volte erano anche più conservatori. Oggi è proprio questa classe fino a 25 anni che invece sta accusando giustamente i propri genitori di costruire un mondo che non è più a misura d'uomo e non è più per loro. E questa è la grande differenza con i fratelli maggiori, che invece a 30-35 anni si dibattono nei problemi, ad esempio, del lavoro, ma non con questa consapevolezza. Ecco, quindi c'è davvero una nuova visione etica di questa generazione che credo possa darci molte sorprese. Grazie a Francesco Morace, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Dalla prossima vi terremo compagnia con la consueta antologia estiva, con il meglio della stagione. Per agosto vi abbiamo invece preparato una sorpresa. Tenete d'occhio la nostra pagina Facebook e le pagine social di Radio 24. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.